20 Ma ora in onda l'artiglio. Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 2010, questo è l'Artiglio, un programma di approfondimento cinematografico che vi terrà compagnia per la prossima mezz'ora circa. Io sono Luigi e con me alla parte tecnica e in generale a tutto quello che al liceo non ti insegnano c'è Fabio. E gli ascoltatori più assidui, più attenti di Radio 2010, e mi riferisco in particolare a quei 5 ascoltatori che hanno seguito le prime puntate dell'Artiglio, avranno sicuramente notato la grande e triste novità di questa nuova veste dell'Artiglio, e mi riferisco ovviamente all'assenza del sommo critico cinematografico Fosco D'Artiglio. Un'assenza che ci rattrista tutti e che ci teniamo a ribadire non è da attribuire alla volontà di Radio 2010, ma si è rivelata una scelta necessaria, seguita alle pressioni esercitate sulla redazione da alcune case di produzione e distribuzione, delle quali ovviamente non faremo il nome, che accreditavano alle salaci critiche del nostro studioso un netto calo negli incassi registrati al botteghino. Radio 2010 si è vista dunque costretta ad assumere una politica sicuramente meno incisiva, ma che potesse risultare gradevole ad un pubblico allargato. Abbiamo deciso comunque di conservare il nome, il titolo della trasmissione in onore, in memoria del grande critico, e non escludiamo un ritorno, una eventuale partecipazione qui con noi in trasmissione, magari in presenza di un contraddittorio che ne renda meno drastiche le esternazioni. E andiamo subito a parlare di cinema, in particolare della settimana che si è appena conclusa, una settimana che nonostante la chiamata al voto ha visto gli italiani recarsi numerosi nelle sale cinematografiche, come dimostrano appunto i dati registrati al box office. Si registra in particolare una new entry che si piazza direttamente al primo posto negli incassi ottenuti nel weekend. Sto parlando di Dragon Trainer, il nuovo film d'animazione della DreamWorks Pictures, che incassa nel primo weekend di programmazione 1.217.543 euro. Una cifra che, se a prima vista può fare girare la testa, in realtà delude un po' le aspettative se si paragona l'incasso ad esempio agli oltre 8 milioni incassati dal film di Tim Burton, da Alice in Wonderland, nel primo weekend di programmazione. Ed è proprio Alice in Wonderland che segue in classifica Dragon Trainer nella classifica degli incassi del weekend con 1.172.000 euro, con un totale totalizzando oltre 27 milioni di euro di incasso dall'uscita nelle sale il 3 marzo scorso. Segue Alice in Wonderland, invece è un'altra new entry, sto parlando di Happy Family, il nuovo film di Gabriele Salvatores che totalizza 1.107.595 euro di incasso, una cifra di tutto rispetto per il nuovo film del grande regista italiano che si è avvalso della collaborazione di mostri sacri del cinema italiano come Abba Tantuono. Torna dentro i mentri, a patto il fatto che isso in mag di secrete. Non sei preparato, Nicolino. Toglimi le mani di dosso, rientro nel pattugio, vai dentro nel mio mantro, papacco, va dietro. Oggetto del desiderio. Fabrizio Bentivoglio o Margherita Bui. E le cifre registrate nei botteghini italiani diventano però ben poca cosa se paragonate agli incassi registrati nelle sale statunitensi. In particolare anche negli Stati Uniti Dragon Trainer si piazza al primo posto incassando, pensate, oltre 43 milioni di dollari nel solo primo weekend di programmazione. Io vivo qui. Abbiamo la pesca, la caccia e degli incantevoli tramonti. L'unico problema sono le infestazioni. In molti posti hanno topi o zanzare. Noi abbiamo i draghi. Segue dunque anche in America Alice in Wonderland di Tim Burton, che questa settimana porta a casa 17.300.000 dollari, con un totale dal 3 marzo di 293.100.000 dollari. Una cifra che però non raggiunge neanche la metà dell'incasso totale di un film come Avatar, che ha ormai sfondato la soglia dei 700 milioni di dollari nelle 15 settimane di programmazione. Avatar, lo ricordiamo, è uscito nelle sale di tutto il mondo il 15 gennaio. E proprio dopo 15 settimane di programmazione Avatar scende per la prima volta sotto la top 10 degli incassi settimanali al botteghino negli Stati Uniti, totalizzando 2.015.000 dollari di incasso. 15 settimane dunque di permanenza nella top 10 degli incassi, che in realtà sono poca cosa se pensate alle 44 settimane nella top 10 di un film come E.T., delle 28 settimane di Beverly Hills Cop e delle 26 settimane di Titanic. E al terzo posto della classifica degli incassi nei cinema degli Stati Uniti, anche qui una new entry, una commedia prodotta da Stati Uniti e Canada, sto parlando di Hot Tub Time Machine di Steve Pink con John Cusack. John Cusack, appunto, protagonista di questa commedia, nella quale un gruppo di amici durante un bagno in una vasca a idromassaggio si trova catapultato indietro nel 1986. E questa dunque la situazione al box office per la settimana cinematografica appena conclusa. E passiamo a dare un occhio a qualche notizia o qualche curiosità dal mondo dell'intrattenimento che ci è stata fatta pervenire dalla redazione. Colgo l'occasione per ringraziare Teresa ed Eleonora che mi danno una mano nel raccogliere le informazioni da sottoporre alla vostra attenzione. La prima news viene dal sito deadline.com, un sito di anticipazioni di curiosità dal mondo dell'intrattenimento, in particolare dal dorato mondo di Hollywood. E appunto Deadline ci sottolinea che la Universal ha acquisito i diritti della striscia a fumetti disegnata a partire dal 1938 e apparsa sul New York Times ad opera di Charles Adams. Ci riferiamo ovviamente alla celeberrima famiglia Adams. La Universal ha dunque acquisito i diritti ed ha consegnato il progetto progetto per un lungometraggio al regista Tim Burton, reduce dal successo nelle sale di tutto il mondo con il suo Alice in Wonderland, un successo che purtroppo il regista non è riuscito a bissare presso i critici. Tim Burton ha appunto affermato di voler trarre un lungometraggio girato in 3D e con la tecnica dello stop motion, ispirato alle strisce a fumetti sulla famiglia Adams. La tecnica dello stop motion, lo ricordiamo, è la tecnica che Burton ha già utilizzato nella realizzazione di un capolavoro, a mio avviso, come Nightmare Before Christmas, e di un piccolo gioiello del cortometraggio Vincent, ispirato alla vita e alle macabre storie del leggendario Vincent Price. Burton ha affermato di voler trarre dalle strisce a fumetti un contenuto del tutto originale, lontano dunque tanto dalla serie TV del 1970 quanto dai due lungometraggi realizzati negli anni 90 dal regista Barry Sonnenfeld. Li ricorderete sicuramente, con Raul Julia nei panni di Gomez Adams ed Angelica Houston in quelli della sua consorte Morticia. Staremo dunque a vedere, seguiremo il progetto e vi forniremo ulteriori approfondimenti laddove fosse possibile. La seconda notizia appare invece sul sito del New York Magazine ed è una notizia che farà particolarmente piacere al nostro caro DJ Corrado di Mi sta stretto lo stivale. Stiamo parlando infatti della saga, della celeberrima saga dei Ghostbusters. La Columbia Pictures ha infatti affermato di essere intenzionata a realizzare un terzo episodio della saga sulla scia del successo commerciale del videogioco distribuito in tutto il mondo qualche mese fa. Non mancano però i problemi, le complicazioni anche in questa fase di pre-produzione, dal momento che la Columbia ha manifestato l'intenzione di escludere il regista Ivan Reitman dalla produzione. Ivan Reitman, che lo ricordiamo, aveva firmato nell'84 e nell'89 i primi due capitoli della serie. La Columbia appunto ritiene che l'ormai 63enne Reitman non sia adatto a lavorare con quello che dovrebbe essere un cast di giovanissimi. La storia infatti dovrebbe riguardare un gruppo di poco più che ventenni alle prime esperienze nel campo che fu di Ray Stantz, di Egon Spengler e del dottor Venkman. E la strada però è tutta in salita per la Columbia Pictures, dal momento che pare esista un patto stipulato fra Ivan Reitman e i tre attori protagonisti. Sto parlando dunque di Dan Aykroyd, Bill Murray e Harold Ramis, un patto in virtù del quale ciascuno dei quattro avrebbe il diritto di veto sul progetto Ghostbusters 3 qualora le caratteristiche del progetto stesso non fossero di gradimento. La Columbia dunque spera in un abbandono volontario del regista Ivan Reitman, tra l'altro ricordiamo padre di Jason Reitman, un giovane talento del cinema statunitense. Spera dunque in un abbandono volontario del regista, dicevamo, che dovrebbe essere impegnato con un altro progetto, un progetto dal nome Friends with Benefits, una commedia con Ashton Kutcher e Natalie Portman. e la Reitman ha risposto prontamente alla Columbia Pictures affermando la, la capacità di portare a compimento entrambi i progetti anche se dovesse lavorare contemporaneamente su entrambi. Dunque anche questa è una situazione ricca, che si annuncia ricca di sviluppi, e che seguiremo per voi fornendovi tutte le informazioni che saremo capaci di ritrovare. Queste erano le news dal mondo dell'intrattenimento, ed è giunto il momento di dare un occhio ai film in uscita questa settimana al cinema. Una settimana che si annuncia particolarmente ricca di novità, sono addirittura 8 i film in uscita. Di questi 8 abbiamo selezionato 4 pellicole che ci sono sembrate deciso rilievo. Cominciamo con Gamer, un fantathriller diretto dalla coppia Neville Dine and Taylor con Gerard Butler e Michael C. Hall. Gamer, appunto, un thriller ambientato in un futuro prossimo nel quale Cable, il protagonista interpretato da Gerard Butler, è un carcerato condannato a morte e costretto a prendere parte ad un gioco online nel quale lui ed altre centinaia di carcerati vengono controllati come pedine dai giocatori di mezzo mondo in una lotta all'ultimo sangue. E proprio Cable diventerà l'icona di un movimento di resistenza che si opporrà alla crudeltà del gioco e che proverà in tutti i modi a liberarsi dalla gabbia della realtà virtuale per smantellare definitivamente il gioco stesso ed il suo creatore, il genio Ken Kessel. Ritornano dunque al cinema Neville Dine and Taylor, la coppia che da qualche anno a questa parte sta rivoluzionando in maniera clamorosa il thriller. Lo hanno fatto ad esempio con due pellicole straordinarie come Crank e Crank 2 High Voltage, con un grande Jason Statham nei panni del protagonista. È un tema questo affrontato dai registi di Gamer, che da qualche anno a questa parte è tornato prepotentemente alla ribalta. Stiamo parlando dell'umanizzazione dei contenuti virtuali. Basti pensare a film come Matrix o ad un videogioco come Heavy Rain di recente pubblicazione e distribuzione. Proprio a proposito del videogioco si è parlato della prima esperienza virtuale con i sentimenti, magari un giudizio grossolano che però sottolineava la grande novità introdotta dal videogioco, ovvero una maggiore autonomia di scelta conferita al protagonista e ai personaggi che ruotano attorno al protagonista. Una realtà virtuale che dunque non si limita a riprodurre soltanto lo stato delle cose, ma che mira a riprodurre il libero arbitrio, la capacità di scelta. Questo mi fa pensare ad un film uscito qui in Italia qualche anno fa e a mio avviso sottovalutato in maniera ingiusta. Sto parlando di Nirvana di Gabriele Salvatores con Diego Abatantuono, che appunto trattava il tema della umanizzazione dei contenuti virtuali. Un tema che si presta a numerose interpretazioni e riflessioni di tipo filosofico. riflessioni sul nostro mondo, su un mondo vittima dei ritmi alienanti del mercato globale, nel quale inconsapevolmente siamo mossi come pedine dalle dinamiche della moda, dalle volontà delle multinazionali dell'energia. È un mondo, il nostro, nel quale è diventato sempre più difficile realizzare scelte coraggiose, che rompano il ritmo della routine. Questo era Gamer, che come vedete nasconde ben più di quanto si possa pensare al cinema, dunque, a partire da venerdì. Il secondo film che vogliamo portare alla vostra attenzione è una commedia americana, e sto parlando di Colpo di Fulmine, il mago della truffa, diretto da Glenn Ficarra e John Riqua, con Jim Carrey e Ewan McGregor. Un film distribuito nelle sale statunitensi col titolo forse più incisivo, I Love You Philip Morris. La storia è la storia vera di Steven Russell, un mediocre poliziotto di provincia, texano se non vado errato, che dopo aver scoperto la propria omosessualità fugge dalla famiglia e si trasferisce a Miami, inventandosi una vita da truffatore per garantire a sé e al suo amante Philip Morris, appunto interpretato da Ewan McGregor, un tenore di vita straordinario. Dunque, dopo film come Prova a prendermi e The Informant di Steven Soderbergh, ancora una volta l'America torna a ridere sulle proprie debolezze, torna a fare spettacolo anche della truffa e dei truffatori. E sempre di commedia si parla a proposito del terzo film in uscita questa settimana, una commedia tutta italiana, e sto parlando di La vita è una cosa meravigliosa, diretto da Carlo Vanzina, un film che nel titolo, e ci tengo a sottolinearlo, solo nel titolo cita un grande classico diretto da Frank Capra. Carlo Vanzina parla al presente, mettendo in scena una storia di intercettazioni, di tradimenti, di raccomandazioni, di adulteri, realizzando, lontano tanto dalla critica di costume quanto dalla satira, quella che potremmo definire una moderna commedia dell'arte, nella quale i vizi della nostra Italia, dell'Italia presente, vengono trasformati in maschere inserite in situazioni al limite della paradossalità. E non si tratta di commedia invece, ma di triste realtà. Nel quarto ed ultimo film in uscita che vi segnaliamo questa settimana, sto parlando di un documentario diretto da Thomas Torelli, dal titolo Sangue e Cemento, un documentario sulla tragedia che nella notte del 6 aprile del 2009 ha sconvolto l'Abruzzo. Parlo ovviamente del catastrofico terremoto. Il documentario diretto da Torelli è stato realizzato da Gruppo Zero, un collettivo di comunicatori, di giornalisti d'inchiesta che promuove ed ha promosso negli anni passati una informazione vera ed imparziale. Lo ha fatto ad esempio con un bel documentario sull'11 settembre. In Sangue e Cemento Torelli e i suoi collaboratori provano a ricostruire le dinamiche della tragedia, a risalire alle responsabilità, ponendosi domande di un certo peso. Perché l'Aquila non era stata inserita nella fascia 1 di pericolosità sismica, perché si continuano a tollerare le infiltrazioni criminali nell'edilizia, soprattutto nelle zone a rischio sismico, perché nonostante le avvisaglie non erano state disposte adeguate misure di precauzione. Questo è dunque Sangue e Cemento, che invitiamo tutti a vedere perché si faccia luce su un capitolo oscuro e drammatico della nostra storia recente. Questi erano dunque i quattro film in uscita questa settimana che abbiamo voluto segnalarvi. E siccome noi non siamo dei capelloni, dei parrucconi moralisti, vogliamo rivolgerci anche a chi fra voi non può o non vuole recarsi al cinema, ma preferisce alla poltrona in sala, la poltrona del proprio salotto, e vi segnaliamo dunque qualche film in TV nella prossima settimana. E partiamo con venerdì 2 aprile alle 21:10 su Rete 4. Andrà in onda The Terminal, un bel film con Steven Spielberg e Tom Hanks sulle vicissitudini di un uomo che piomba improvvisamente in una falla della burocrazia e diventa prigioniero di un terminal dell'aeroporto di New York. Questo è The Terminal, uscito nel 2004, alle 21:10 su Rete 4, venerdì 2 aprile. E sempre nella notte fra venerdì 2 aprile e sabato 3, consigliamo a tutti i sonnambuli e sonnambuli con una leggera tendenza masochistica un documentario che andrà in onda su Rai 3 nella serie, per la serie fuori orario diretta da Enrico Ghezzi. E sto parlando de La sesta parte del mondo, un documentario diretto dal mitico regista Dziga Vertov, il padre del costruttivismo, autore di un film straordinario come L'uomo con la macchina da presa, un capolavoro del cinema diretto da Vertov nel 1929. E per questa sesta parte del mondo Vertov realizza un documentario sulla macchina produttiva dell'Unione Sovietica di sicuro interesse. Si esclude il fatto che Vertov fu licenziato dalla Sovkino, dalla casa di produzione, immediatamente dopo la distribuzione l'uscita e la distribuzione del film. Sempre per i nostri ascoltatori più pazienti e tolleranti, segnaliamo domenica 4 alle 15 su Rete 4 Il Gigante, un colossal del 1956 diretto da George Stevens, con un cast stellare da Rock Hudson a James Dean fino a Liz Taylor. Per chi non lo conoscesse già, Il Gigante racconta l'epopea della famiglia Benedict alla strenua quanto vana difesa della tradizione bovara texana di fronte all'inarrestabile avanzata delle industrie del petrolio. E per i nostri ascoltatori che hanno un debole per il cinema tamarro, non possiamo fare a meno di segnalarvi per martedì 6 alle 21:10 su Italia 1 un classico del film d'azione, e sto parlando di Tango e Cash con la esplosiva coppia Kurt Russell e Sylvester Stallone nei panni di una coppia di agenti della polizia di Los Angeles incastrati durante la lotta ad un cartello della droga, che finiscono in prigione e che dalla prigione dovranno affermare la propria innocenza e provare a sconfiggere il cartello della droga. Non mettono i poliziotti fra i comuni, eh? Te lo picco in culo fino alle budella! Io ti schiocco un tizio nero! Ah, Cristo, la metà li ho messi dentro io. Tango, diventerai la mia puttana! Ti ammazzerò! Conosco una cosa che somiglia a questo posto. E prima di salutarvi vi lasciamo con un consiglio consigliandovi appunto un film del 1948. Sto parlando di Ti amavo senza saperlo, un film musicale diretto da Charles Walter. Titolo originale Easter Parade, ovvero la parata di Pasqua, ed è questo il motivo per il quale ve lo consigliamo in questo fine settimana. Un film di grande successo con la coppia Fred Astaire e Judy Garland, un film che ha addirittura vinto un Oscar per la migliore colonna sonora per un film musicale, appunto all'edizione degli Oscar del 1948, una colonna sonora di tutto rispetto firmata da Irving Berlin, che è uno dei più grandi autori di standard della musica leggera americana, assieme a Cole Porter e a George Gershwin. Berlin, che ha firmato classici del calibro di Blue Skies, Cheek to Cheek, White Christmas o How Deep Is the Ocean. È un film musicale, questo appunto, dicevamo, con Fred Astaire e Judy Garland. Fred Astaire che ha sostituito Gene Kelly in fase di realizzazione. Gene Kelly è un altro grande mostro sacro del cinema musicale americano, che appunto si era fratturato un'anca durante le prove del film. Questo è tutto per la terza puntata dell'Artiglio. Vi ringraziano assieme a me Fabio alla parte tecnica e Eleonora e Teresa in redazione. Vi lasciamo augurandovi una buona Pasqua e con un arrivederci alla settimana prossima. Ciao a tutti e buon cinema. Thank you.